9 in punto. Buongiorno cari ascoltatori da Simone Spezia e benvenuti a 9 in punto. Come già si diceva prima, oggi ci prendiamo un attimo di respiro da questo post elezioni che sarà molto molto lungo, almeno a vedere dalla tattica e pretattica che si sta facendo in questo momento tra un PD che cerca di prendersi un pezzo del Movimento 5 Stelle o quantomeno di portarlo al governo e addirittura arriva a proporre con D'Alema oggi sul Corriere della Sera, come abbiamo visto, una presidenza del Senato al PDL e la presidenza della Camera appunto al 5 Stelle. Tattica dunque, si torna da quelle parti. Ci prendiamo un attimo di respiro, anche perché le Camere si insediano il 15 di marzo e oggi parliamo dell'ultimo giorno da pontefice, da Papa di Benedetto XVI alle 20 di questa sera. Insomma, entreremo poi nel dettaglio di come proseguirà questa giornata, di come sarà questa giornata, non sarà più Papa, insomma, e quindi tra poco inizierà il conclave. Vedremo di aprire scenari, di guardare agli scenari futuri, ma soprattutto cercheremo di capire che cosa è successo in questi anni e anche come la vedete voi. Oggi Ilvo Diamanti su La Repubblica si dedica esattamente a questo, tira giù un'analisi di come gli italiani vedono il Papa. E si nota, si trova innanzitutto la netta discesa di fiducia dopo Giovanni Paolo II, ma poi si nota anche che in questo momento, anno 2013, gli italiani hanno più fiducia nel Papa che nella Chiesa e quindi che nell'istituzione. Partiamo da un bel libro, uscito l'anno scorso in realtà, quindi quando Benedetto XVI era ancora, non aveva ancora, forse aveva già pensato a dimettersi, ma comunque non lo aveva detto a nessuno. È firmato da Gianfranco Sviderkowski, si intitola Il ritorno dei chierici e denuncia, racconta proprio questa sorta di deviazione, di divaricazione. Come se il Concilio Vaticano II, dopo il Concilio Vaticano II, ancora non si fosse arrivati a una chiusura, come se la frattura tra gli elementi conservatori, per così dire, quelli più fedeli ai dettami del Concilio Vaticano II, non fossero ancora riusciti a saldarsi, come se si fosse creata una sorta di chiusura all'interno della Chiesa. E racconta, tra le altre cose, sembra emergere, poi insomma, voglio sapere da lui se ho letto bene questi passaggi. Racconta come in sostanza ci sia un pezzo della Chiesa che sembra ancora rispondere a quello che uscì dal Concilio di Trento, e siamo nel 1500. Vi leggo questo passaggio perché tra l'altro ha qualcosa che ci ricorda l'Italia di questo momento. Il clericalismo, parla del clericalismo come progressiva trasformazione di un ministero di servizio in una guida di tipo prima paternalistico, poi sempre più autoritario, una chiesa autoreferenziale, gelosa custode della propria immagine, del proprio potere, per questo timorosa costantemente di perdere il controllo che questo potere le permetteva di esercitare. Guardate quanto ricorda l'Italia tutto questo. Sviderkowski, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Ho dato buona lettura della cosa, io non sono un esperto di cose vaticane. No, è una lettura perfetta, anche perché per troppo tempo questa parola è stata usata, abusata, ma anche stravolta nel suo significato reale. Sembrava negli ultimi tempi sempre che il clericalismo fosse in qualche modo una chiesa che entra nelle questioni proprie di uno Stato, quindi l'ingerenza dei problemi statali. Invece bisogna risalire alle origini, cioè il clericalismo è il potere dei chierici e questo era... dopo Trento, dopo il Concilio di Trento, per cui come reazione ai protestanti, alla riforma protestante che riduceva il ruolo del prete, ci fu un'esaltazione del prete tale per cui il prete era un super cristiano, mentre, come diceva il cardinal Bellarmino, diceva che i laici erano la plebe addirittura. E questo andava avanti per qualche secolo, ma in qualche modo per quanto contestabile, il clericalismo andava contestualizzato un po' nelle varie situazioni storiche, per cui in qualche modo ha difeso la Chiesa e il Papa. L'unica, dopo il concilio, però, l'ultimo concilio che aveva purificato la Chiesa, si pensava che fosse un fenomeno scomparso, e invece è un fenomeno che ricompare con una diversa dimensione ancora più pericolosa, e cioè che è diventato una sorta di sistema corporativo, cioè si difende la casta, si difende l'istituzione, e non lo dico io, ma nel 2000 c'era una commissione dei vescovi italiani, del clero, che fece un'inchiesta e scoprì che le nuove generazioni dei preti, dei giovani preti, sono segnate da individualismo e appunto clericalismo. In più mettiamoci tutti i richiami dei papi degli ultimi tempi, sia Giovanni Paolo II, sia Benedetto, che parlano sempre di questo ritorno di carrierismo, di arrivismo nella curia romana, e si vede come una certa degenerazione del potere nel mondo, nella società, è entrato anche nella Chiesa. Beh, continuo a dire, ribadisco, quanto mi ricorda l'Italia tutto questo. Buongiorno Katia Caramelli. Buongiorno. La nostra collega che abitualmente si occupa delle vicende vaticane e che sarà la nostra inviata al conclave, cioè non dentro la Cappella Sistina naturalmente, perché magari avessimo un inviato dentro la Cappella Sistina. Buongiorno Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, salve. Buongiorno. E benvenuto. Partiamo però, insomma, la domanda che vi vogliamo fare è come, partendo anche da quello che vi riferivamo, da questo sondaggio Ilvo Diamanti, insomma, come avete letto voi, sia da fedeli che da non fedeli eventualmente, come avete letto questo papato? Ebbene, proprio la nostra Katia Caramelli ha intervistato ieri Hans Küng, teologo svizzero, come sapete, con un forte grado di dissidenza, cioè spesso con posizioni critiche nei confronti dell'attuale assetto della Chiesa. Come sentite, ospitiamo anche un'altra persona che ha degli elementi critici su tutto questo, però insomma è un'intervista importante, la potete trovare integrale, ve lo ricordo, su www.radio24.it. ma sentiamone un passaggio proprio su quello che è stato, secondo lui, su quello che ha fatto Benedetto XVI. Si parte dalla vicenda Vatilix. Evidentemente dobbiamo riconoscere che il Papa ha fatto tutto quale era il suo ufficio, queste cerimonie, liturgia, sermoni e poi tre encicliche, tutto questo con molta, molta intensità. Però, visto dall'insieme, è rimasto che questo pontificato è un pontificato di opportunità perdute. Questo pontificato ci pare come una storia di errori. Lui aveva la possibilità di avere gran progresso nell'ecumenismo con le altre religioni, eccetera, eccetera, ma lui ha disilluso, ha praticamente offeso i protestanti che hanno non chiese serie, vere chiese, lui ha offeso i musulmani, los indios dell'America Latina e anche gli scienziati, ha fatto molte decisioni che non hanno convinto il mondo. Dello scandalo Vatilix, professore, lei che idea si è fatta? Vatilix ha solamente mostrato la realtà nella curia romana. È chiaro che ci sono molte battaglie per il potere, che c'è una corruzione tremenda, che anche le relazioni sessuali sono molto curiose. Dunque questo rapporto, che non conosciamo in dettaglio, ha mostrato che è veramente una grande miseria nella curia romana, e il Papa ha confermato tutto ciò che molti anche in curia romana hanno detto: questo Papa non governa, e ha praticamente usato tutto il suo tempo libero non per governare, ma per studiare e scrivere libri. E questo dunque l'opinione di Hans Küng. Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Allora, pontificato di occasioni perdute, miseria nella curia romana, questo papa non governa. Lei che cosa dice? Che cosa dire? Innanzitutto io penso che i sondaggi vadano presi con molto interesse, ma forse anche le vicende politiche italiane ci hanno insegnato quanto valgano i sondaggi. Cioè, vogliamo ricordare? Sì, forse su questo ha anche ragione. Io ho una fortuna. Se ne parlava pure ieri Orfini del Partito Democratico scherzava dicendo gli farei una class action ai sondaggisti. Appunto. Prego. Io credo che questo valga anche per altre cose. Io ho una fortuna, sono un giornalista che ha lavorato in diverse testate, da qualche anno sono ad Avvenire, che è un punto di osservazione straordinario sulla realtà del mondo cattolico, e posso testimoniare per il lavoro di cronaca che viene fatto, che non guarda solo nella direzione del mondo cattolico, come sanno quelli che ci leggono, che però guarda con una speciale intensità e particolare capacità di approfondimento in quella direzione, tutto quello che viene raccontato ed è mediaticamente proiettato intorno alla Chiesa è piuttosto differente dalla realtà. Non è che il nostro non sia un tempo di difficoltà per la Chiesa, vorrei conoscerne uno che non è stato segnato dalle difficoltà per la Chiesa nei 2000 anni della sua vicenda. Spidalkowski è anche un lucido storico di questi percorsi e penso non potrà che confermarlo. Nel tempo specifico che stiamo vivendo, io noto, ad esempio, a prescindere da quello che dice Don Hans Küng, che è un prete della Chiesa Cattolica, non messo ai margini dal Papa regnante che non si è occupato d'altro che dei suoi libri, fra l'altro è stato una delle prime persone che ha consultato quando è diventato pontefice, pochi sanno che è un prete, fra l'altro. Dicevo, nel mondo è accaduto qualcosa in questi anni, sia col pontificato dei grandi papi del Novecento fino ad arrivare a Giovanni Paolo II, la sua figura carismatica straordinaria e questa figura essere potente di Benedetto XVI che ha indicato ai cristiani, a tutti gli altri credenti in diversa maniera e ai non credenti la strada di un dialogo intenso sulle cose che fondano l'umano in un tempo in cui l'umano viene messo in discussione. Il modo per alzare lo sguardo a Dio. Qualcuno poco fa parlava delle offese protestanti ai musulmani. Io registro che gli ebrei hanno ribadito che non c'è mai stato un rapporto così efficace, sereno, dialogico come sotto questo pontificato. Registro che i musulmani, dopo il grande fraintendimento, frutto anche di un circuito mediatico impazzito, dello straordinario discorso di Ratisbona di Benedetto XVI sul dialogo fra fede e ragione e del senso della vera laicità e del limite della pretesa teocratica e della violenza portata in nome della fede nella società trasformata in offesa ai musulmani, è partito quel dialogo quasi incredibile con 138 intellettuali e guide spirituali musulmane che hanno scritto quella lettera al Papa, una parola tra di noi, che si è sviluppato lontano e continua a svilupparsi lontano dai riflettori per la prima volta da secoli. Dentro la vicenda delle chiese cattoliche ci sono delle difficoltà con gli evangelici, ci sono state pagine straordinarie di dialogo anche nell'ultimo viaggio in Germania, ci sono stati gesti potenti con gli ortodossi, francamente faccio fatica a tirare un bilancio negativo. Nel rapporto con la gente, infine, sì, possiamo, le folle non sono tutto, certo non sono i sondaggi. Questo è il Papa che ha raccolto intorno a sé nel momento in cui, già eletto vecchio al soglio di Pietro, un po' controvoglia come sappiamo tutti, si è ritrovato circondato regolarmente dall'affetto di, diciamo, di grandi folle ogni volta che apriva la sua casa, Piazza San Pietro, la Sala Nervi. Ogni volta c'erano più del doppio dei pellegrini che raggiungevano Giovanni Paolo II, che era un Papa diverso, pellegrino, che andava per il mondo, tutti sapevano che prima o poi sarebbe arrivato a casa loro, sono andati dal Papa, visto che il Papa poteva viaggiare un po' meno per ragioni di età. Credo che ci siano due modi di leggere le cose. Io ho dato una lettura positiva, forse anche per bilanciare, molto positiva, esclusivamente positiva, di questi 8 anni molto intensi e complicati, ma certamente c'è un altro modo di leggere totalmente distruttivo e mi pare non solo ingeneroso, ma anche molto mio. Questa la sua idea, Tarquinio, poi voglio sentire su questo il nuovo Svidercosch e poi la nostra Katia Caramelli, ma prima iniziamo a prendere le telefonate perché mi interessa, per carità, non è un sondaggio, però insomma, mi interessa sentire la vostra opinione. Bruno da Treviso, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io voglio dire solo questo, no? Che il Papa, prima di essere Papa, è un uomo che alla sua età può sentirsi stanco, no? Fisicamente, non mentalmente, fisicamente, di tutto quello che un papato, no? Che il suo ruolo gli porta anche a fare e a muoversi e a chiedere al suo fisico di dare. Io mi ricordo che Giovanni Paolo II, nell'ultimo percorso della sua vita, aveva a suo fianco due energumeni, no? Due persone, due maschi alti e grossi, perché se, come ha detto il suo portavoce, se si inciampava, non era l'Alzheimer che gli faceva perdere l'equilibrio, era un inciampo, no? Poteva cadere. Ecco, queste cose da un fisico umano è un insulto. Bruno, quello che voglio capire da lei è che immagino che lei sia un fedele, perché lo sento vagamente dalla lettura che sta dando di tutto questo, e vorrei capire da lei che cosa le è sembrato di questo Papa e anche di quello che ha visto nella Chiesa negli ultimi mesi da credente. Passati gli 80 anni ha un degrado tremendo, non è una donna che magari la sua testa può rimanere lucida per più tempo rispetto ad un maschio in genere il fisico lo abbandona. Ok, quindi rimaniamo sul fisico. Rimaniamo sul fisico. Sentiamo Beppe della provincia di Chieti, buongiorno. Pronto, mi sente? Sì, perfettamente. Sì, grazie, buongiorno. Io volevo chiedere a lei e al direttore dell'Avvenire di commentare, avrò fatto questa riflessione, cioè, insieme alle dimissioni di Papa Ratzinger c'è stato un fenomeno importante che credo che molti commentatori abbiano ignorato durante le ultime elezioni, e cioè una forte diminuzione dei politici cattolici, che qualcuno è stato trombato clamorosamente e qualcun altro non ha avuto la possibilità di accedere al Parlamento. Quindi andando a fare un'analisi così del nuovo Parlamento si evince che c'è una forte assenza di politici cattolici. E la riflessione che volevo fare è questo: non è che il paese, cioè in questo caso l'Italia, si è un pochino allontanato da quest'idea del cattolicesimo inteso anche come impegno politico, e che i politici cattolici per anni hanno vissuto su questa strana anomalia di rappresentare un elettorato cattolico che di fatto non era più vicino alle loro idee, alle loro proposte. È un tema interessante, Beppe, che tra l'altro... Scusi, prego. L'ultima cosa, poi le lascio la parola. Grazie. Guarda caso, le dimissioni di Papa Ratzinger sarà stato anche una strana coincidenza, ma le dimissioni del Papa hanno coinciso, guarda caso, con questo allontanamento dell'elettorato cattolico o pseudotale, e quindi i due fenomeni li vedo abbastanza collegati, abbastanza inerenti e conseguenziali. Beppe, chiarissimo, ne parleremo, abbiamo capito, ne parleremo, anche perché, come dicevo, Svidercosch nel suo libro ne parla parzialmente quando affronta il tema dell'agire pubblico dei cristiani, dell'agire pubblico dei cattolici, a volte, anzi, forse troppo spesso, non corrispondente a quelli che dovrebbero essere dei valori cristiani o dei valori cattolici. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, riprendiamo però dalla nostra Katia Caramelli, perché poi, insomma, la cronaca, le indiscrezioni in queste ore che precedono il conclave si affollano, no Katia? Sì, certo, anche troppe direi, per certi aspetti, perché poi è difficile sempre verificare, insomma, vedere quanto siano fondate. Che di cosa si Ma parla? Allora, in le ultime ore? Sono queste, dato che sicuramente, questo è innegabile, una delle riforme che stava a cuore a Benedetto XVI, ma che non è stata attuata e che quindi passa nelle mani del suo successore, è quella della Curia Romana, appunto per tutte le cose che ci siamo detti. E si parla molto di una presunta bozza già messa a punto da Nicola Cocco Palmerio, il cardinale Cocco Palmerio, per smantellare, diciamo così, tra virgolette, la struttura verticistica del Vaticano, ossia per ridimensionare quantomeno il potere che Paolo VI aveva dato alla segreteria di Stato. Ricordiamo che Paolo VI aveva dato questo potere alla segreteria di Stato perché ci aveva lavorato, la conosceva molto bene e riusciva anche a gestirla molto bene. Poi c'è stata, ad avviso di molti, una degenerazione di questa struttura. Ora si vorrebbe rivederla in parte, sappiamo quanto la segreteria di Stato, adesso a torto o ragione, sia stata comunque nel mirino dopo l'esplosione dello scandalo VatiLeaks. Sì, tra l'altro, no, c'è oggi quest'altra indiscrezione di Panorama, secondo la quale Bertone faceva intercettare tutta la curia, perché poi stiamo parlando della segreteria di Stato e stiamo parlando di Bertone dipinto in queste ultime settimane soprattutto come una sorta di uomo nero all'interno del Vaticano, Katia. No? Certo, diciamo pure che allora noi siamo tra i pochi, questo dico, ad aver intervistato uno dei tre componenti della commissione VatiLeaks, il cardinale Herranz. Allora, del rapporto VatiLeaks si sa veramente poco, quindi gli scenari che sono stati dipinti, questo concordo con la segreteria di Stato, sono quantomeno poco verificabili. Sicuramente, lo diceva anche Kung, c'è un problema di curia romana che sicuramente ha influenzato anche il Papa nella sua scelta, quindi il rapporto VatiLeaks, il Papa ha detto, andrà nelle mani del mio successore, ma è innegabile che sarà in parte trasmesso dai tre cardinali ai cardinali elettori, perché non si potrà prescindere da questo scenario per vedere chi dovrà essere il nuovo successore di Ratzinger. Svidercovsky ha sentito quello che ci diceva Tarquinio, ha sentito quello che ha detto Kung, ha sentito anche quanto veleno sta girando, vedremo se verificato, verificabile oppure no. Ci aiuti e ci dia la sua posizione su tutto questo. Devo dire che Hans Kung è sempre lo stesso, quindi lui calca le tinte fosche sempre, non c'è mai niente di positivo. Ora, se uno va a vedere anche questo pontificato, non può negare che questo pontificato non abbia fatto delle cose importanti, forse sempre in ordine un po' decrescente, e questo forse vorrei spiegare proprio per la mancanza, credo, mancanza di aiuto che questo Papa ha avuto sia dalla Curia Romana sia dall'Episcopato, perché non è un problema soltanto della Curia Romana. Questo, diciamo, questo sistema verticistico, questo sistema di potere che andrebbe riformato da capo, tocca anche molte curie diocesane, cioè tocca l'Episcopato mondiale, tocca anche le parrocchie. Chi è che non conosce qualche parroco padrone di della sua parrocchia e che ha messo da parte completamente i laici? Ora, molte cose buone l'ha fatto il Papa, a cominciare dalla prima enciclica in cui ha buttato a mare, credo, 4 secoli di vero presunta sessuofobia della Chiesa, ha ridato importanza all'amore umano. Per dire i viaggi che ha fatto, come ricordava anche Tarquinio, che saluto, ciao Marco, diciamo, quando andava lui all'estero era molto più libero, più tranquillo, non c'erano i condizionamenti della curia, non c'erano i condizionamenti della stampa italiana che traduceva tutto in un certo modo e appiattiva tutto sulla situazione italiana. Per esempio della laicità ne ha parlato in Francia, la sana laicità, dell'etica che deve fare il fondo della politica ne ha parlato in Inghilterra, in Germania, di quello che deve essere il politico nella difesa e nella promozione del bene comune, in America, quando è andato a chiedere perdono alle vittime della pedofilia, mi ricordo questa bellissima immagine di lui che appoggiava la sua fronte su questa ragazza nera. Ecco, ha fatto molte cose, l'invenzione del cortile dei gentili, cioè questo rapporto anche con i non credenti. L'unica cosa è che a un certo punto non è stato più aiutato, e non è stato aiutato da fuori, in cui c'è stato sempre un crescendo di accredito nei confronti di questo Papa. Pochi lo ricordano, ma questo Papa è stato impedito da un gruppo di studenti e di professori di andare a parlare alla Sapienza di Roma, all'università, dove parlano gli attori, dove parlano i calciatori, cioè un Papa non aveva il diritto di esporre anche l'opinione della Chiesa sul rapporto fra scienza e ragione, che era un bellissimo discorso. Allora, questo Papa veramente non è stato aiutato, ci sono proprio dei momenti precisi in cui anche i cambi di personaggi alla Segreteria di Stato, le cariche, tutto questo c'è stato progressivamente una mancanza di aiuto al Papa e nello stesso tempo anche questa degenerazione sempre più del potere all'interno della Curia, ma anche in altre parti che esiste. Io penso però però Svidercovsky, da quello che dice lei, alla fin fine sembra emergere un'incapacità o quantomeno una forte difficoltà di governo da parte di Ratzinger. Sì. Uno, proprio una cosa, lui congeniale. Lui è un uomo mite. Non riesce, non è riuscito nemmeno, non vale dire qualcosa dai particolari, nemmeno a mettere d'accordo i litigi, a sanare i litigi fra i due suoi segretari particolari, quello di prima e quello di dopo. Cioè, un uomo che non riesce a prendere una decisione perché sa di fare un torto o perlomeno di andare contro un altro. È pubblica la cosa di qualche cardinale che è andato da lui a chiedergli le dimissioni del segretario di Stato per quello che era successo in determinate occasioni, tipo al tempo della storia del retorto alla scomunica ai vescovi lefebriari, e lui non riesce a fare questo. E infatti è molto molto molto indicativo il suo discorso di ieri. Cioè, lui che saluta tutti, parla di generosità di quello, di quell'altro, della fedeltà del segretario di Stato. Lui si è assunto tutte le responsabilità sulla sua completa e assoluta persona. Lui se le prese lui, le lascia al successore, dovrà pensarci. Ma lui non è riuscito a fare questo. Però, tornando all'inizio, e da una risposta un po' anche agli ascoltatori, bisogna fare un po' la distinzione di quello che è Chiesa. Non è Chiesa soltanto il Vaticano, la Chiesa è il popolo di Dio, anzi devo dire che il mondo dei laici è un po' più grande del mondo della gerarchia, cioè intendendo i vescovi. Ma forse Svidercovsky, l'errore è stato proprio nel far sì che a un certo punto la parola Chiesa e la parola Curia Romana sostanzialmente si identificassero. Questo è un errore Vaticano e della stessa Curia Romana, probabilmente anche dello stesso Ratzinger, che non è riuscito ad arginare questo. Ma sicuramente c'è un problema. Quando accennava al mio libro, io dicevo appunto di questa nuova Chiesa che è nata dal Concilio, che a un certo momento ha cominciato a vivificare, dietro l'impulso del Concilio, poi a un certo momento si è bloccata di colpo, come se dentro fosse scoppiato un campanello d'allarme e fossero queste cellule degenerative, anti-Concilio, fossero improvvisamente, avessero invaso il corpo della Chiesa. Perché? Perché era il problema in cui bisognava disegnare una nuova struttura di Chiesa. La cosa assurda, scandalosa, è che dopo 50 anni quello che è il documento fondativo del Concilio, la Lumen Gentium, non è ancora stato realizzato. E i tre punti sono esattamente quelli, cioè una Chiesa che sia più mistero, più spirituale, e invece si vede questa Chiesa che con un volto così istituzionale e così di potere. Poi la Chiesa popolo di Dio, lo stanno scoprendo, cioè tutti sono uguali, io, lei, il Papa, tutti, poi il ruolo è diverso, ma a un certo momento c'è una corresponsabilità, ci deve essere, e i laici oggi sono considerati. E poi alla fine la collegialità, c'è un buon rapporto fra Roma e le chiese locali, però devo dire, senza che sia una critica, proprio significa anche fare tante cose buone, forse che lo si scoprirà un domani, anche con il passaggio di questo pontificato, è che forse questo Papa non era il più adatto per fare una riforma della Chiesa. Non è il più adatto, uno, perché per la sua storia personale, per i suoi criteri di giudizio, lui si è fermato al 68, lo dice nel libro, dopo di allora non ha più capito la società, è una società invasa dal relativismo che lui non ha più capito. E poi anche un Papa che, diciamo, si è portato dietro le sue disillusioni dei tempi del Concilio. Tu in questi giorni l'ho sentito fare una ricostruzione del Concilio che è quella di lui quando era perito del Concilio, cioè non riuscito ancora a digerire quello che il Concilio ha fatto, la diversità del Concilio. Ed è chiaro che quindi lui non è stato uno dei più favorevoli a questo ridisegnare la Chiesa, a questo cambiamento di struttura. Però da qui al giudizio a sua volta offensivo, secondo me, di Klund nei confronti del Papa, ce ne passano così, anche perché poi, ecco, è una chiesa che va ricostruita, io penso, non soltanto sul problema della curia, ma anche, credo, a livello di coscienza delle persone, di fede delle persone. Quando si parlava appunto anche dei cattolici politici, è perché non ci si ricorda che Concilio 50 anni fa ha detto che il più grande scandalo, allora diceva, non era ateismo, che era contro la fede, negava Dio, ma la più grande scandalo era la separazione tra fede e vita, cioè è venuta su una generazione di cristiani, di cattolici, in cui si va in chiesa e si prega tutto, poi si va fuori e si dimentica tutto questo. Ed ecco questo, io penso, anche molto la spiegazione di quello che sta capitando nel mondo attuale. Massimo ci chiama da Roma, buongiorno. Massimo? Pronto? Massimo, ci sente? Pronto? Sì, prego. Buongiorno. No, io volevo solamente dire una cosa, è che come accade in questo paese per la politica, purtroppo accade anche in questo paese per il Papa, cioè si tiene sempre troppo conto, secondo me, dei problemi politici, dei problemi legati alle varie strategie, e non si tiene conto, secondo me, di 1,5 miliardi di cattolici nel mondo. Badate bene, chi vi parla non è un cattolico di quelli modello. Sono una persona che comunque sia, sono cattolico, però il problema è che qui si è dimenticato un po' tutte le persone che praticamente credono, ed è una delle cose, secondo me, fondamentali di questa cosa, di questo tipo di discorso, dove secondo me, e chiudo, non voglio rubare altro tempo, dopo Giovanni Paolo II, che ha portato una certa modernità e il passo con i tempi la Chiesa, con Benedetto XVI c'è stata, secondo me, un'involuzione, un parlare alla classe più elite del cattolicesimo e non parlare alle masse, che poi sono quelle che, secondo me, hanno più speranza in Dio. Ripeto e chiudo. E non sto parlando un cattolico di questo modello, però la vedo così dall'esterno. 9 in punto. Maria Antonietta ci chiama da Napoli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Prego. Sì, io volevo dire una cosa fondamentale, che in questa trasmissione, come in tante altre che si sentono in questi giorni, si usa valutare la Chiesa da un punto di vista politico, sociologico, etico, di tanto altro, ma la Chiesa è molto molto di più. E che cosa sia la Chiesa, l'ha detto proprio il Papa Ratzinger, se santità, non solo ieri, in quel discorso che ha fatto e che voi avete ripreso pochissimo in trasmissione, non solo ieri, ma durante tutte le catechesi che il suo pontificato ha fatto, durante tutte le catechesi che ha fatto nel suo pontificato, e cioè che la Chiesa è una comunità di viventi, la Chiesa è una comunità di viventi che si riconosce in una persona, non è la Chiesa un ente religioso, un'istituzione culturale, sociologica, sociale, è una comunità di viventi che si riconosce in una persona che è Cristo, e questa risposta la Chiesa la dà quando si vedono tantissimi fedeli, non solo durante quest'ultima settimana ad andare dal Papa, ma durante tutti gli incontri che il Papa ha fatto di catechesi il mercoledì, talmente più affollati di quelli di Giovanni Paolo II, che ha dovuto farle addirittura in piazza San Pietro la gran parte, perché non c'era lo spazio per accogliere tanti fedeli. Comprendo, Maria Antonietta, comprendo la sua posizione e la sua visione, che in una certa misura associabile a quella dell'ascoltatore che ci ha chiamato prima, Massimo, e su questo vorrei sentire Marco Tarquinio, direttore di Avvenire. Ma insomma, Tarquinio, dal suo peculiare punto di vista, è solamente colpa di noi giornalisti, o è anche che negli ultimi anni, negli ultimi mesi soprattutto, si sono combattute delle battaglie molto poco basate su questo all'interno della curia, delle quali molto abbiamo letto e molto si è parlato, che forse hanno avuto anche un ruolo nell'abdicazione di Benedetto XVI, e quindi, insomma, sì, colpa nostra, ma fino a un certo punto. Ma io credo, lo dico con una battuta intanto, credo che i primi a essere malati di clericalismo siano i giornalisti. I giornalisti leggono la vicenda della Chiesa quasi esclusivamente in questa chiave. Ho detto spesso che è più facile che ci si rivolga, lo dico provocatoriamente, alla voce, cercandola disperatamente nel vasto panorama dell'Episcopato italiano e mondiale, a una voce di vescovo piuttosto che ascoltare le voci di 100 laici impegnati che vivono la Chiesa e danno il loro contributo, a, come dicono i credenti, alla costruzione del regno. In altro modo si può dire partecipare nel mondo senza essere del mondo alla difesa, all'affermazione di un umanesimo, di un'umanità diversa. Pensateci un attimo, poi non so se dobbiamo fare autocritica come categoria. Io ho lavorato in diversi giornali, queste cose le ho viste con i miei occhi. Il cattolico che fa, il laico cattolico che fa notizia è quello che è regolarmente in dissenso dalla sua Chiesa. Solo questo è il laico cattolico che entra nelle pagine del giornale. Addirittura togliamo il Don Kung sistematicamente, io sfido quanti nei giornali italiani sanno che è un prete, perché non fa comodo dirlo, perché è più facile raccontarlo come un professore che pontifica di teologia e di filosofia mettendosi ai margini e fuori. No, quindi io credo che ci sia un problema. Problema anche di comunicazione, e questo è un problema però che riguarda anche la Chiesa stessa, perché l'immagine che viene veicolata non è frutto soltanto della malizia di chi informa, è probabilmente frutto, anzi certamente frutto anche di qualche problema di comunicazione, e non mi sto riferendo, lo dico a scanso di equivoci, al tipo di straordinaria comunicazione sulle cose della Santa Sede che ha fatto da quel grande, la grande persona, il grande professionista che è padre Federico Lombardi. Sì, sì, sì, abbiamo capito, lei intende le voci, come dire, le voci che escono dall'interno della Curia Romana, insomma, non chiaramente la comunicazione ufficiale, insomma, di Papa Benedetto XVI e di padre Federico Lombardi, questo è chiaro. Svidercovsky, lei come la vede? Perché questo mi sembra un tema interessante. È colpa nostra, di noi giornalisti, che stiamo qua a leggerla politicamente come dei pazzi, a cercare il sotterfugio, una sindrome da Dan Brown, per cui ci scrive scherzando un ascoltatore su Twitter, Bertone è il Voldemort del Vaticano, cioè il Voldemort è il cattivo di Harry Potter. È un nostro problema o ci sono all'interno della Curia, come mi sembra di intuire anche dal suo libro e da quello che ci ha detto, dei problemi che da questo lato vanno sottolineati? No, intanto c'è da dire che credo che la Chiesa di oggi sia ancora un po' distante da quello che diceva Giovanni Paolo II una volta, che la Chiesa doveva essere una casa di vetro. Se ci sono dei problemi negli ultimi tempi, questi problemi si sono accentuati, sto pensando soprattutto al problema della pedofilia, al problema adesso di Vatilix, e proprio perché è mancata una comunicazione da parte della Chiesa, cioè un andare a raccontare i problemi. E io mi chiedo, quando è che è successo il fatto dei preti pedofili nelle parrocchie si è spiegato questo problema? Quando è che nelle parrocchie si è anche intervenuti su un problema anche di Vatilix, che in qualche modo, anche se esterno, anche se molto politicizzato, ma in qualche modo può finire per toccare la fede? E anche sul fatto adesso delle dimissioni del Papa. Io credo alle dimissioni del Papa per non posso non credere adesso per motivi di salute, per usura psicofisica, ma il Papa ha cominciato a parlare, in qualche modo annunciandolo, di dimissioni già nel 2010 nel libro intervista, quindi quando stava bene, e poi dopo ha ripetuto varie volte, già un anno fa ci ha pensato, quindi ci sono dei problemi per cui il Papa ha dato le dimissioni, o perlomeno ci è arrivato in questa maniera. Anche il predecessore di Tarquinio, Dino Boffo, l'ha detto in una sua newsletter, ha detto ma se non ci fossero stati tanti guai, sarebbe avvenuto in questa maniera. E allora, che cosa bisogna dire? Nella mia parrocchia domenica scorsa c'era una ex catechista che chiedeva al parroco, ma perché non ci fa Don Tal dei Tali, non ci fa una bella assemblea, un po' ci racconta qualcosa e quell'altro? No. E perché ho sentito domenica, dopo l'Angelus, in piazza San Pietro, un signore che diceva, abbiamo tanto questo Papa, pregheremo per lui, però io non ho capito. Allora forse c'è qualcosa che si può dire, senza andare nei particolari, ma qualcosa che si può dire in più, perché è meglio che la Chiesa sia trasparente, che il popolo di Dio sappia certe cose. Detto questo, però c'è, se sicuramente una, certe volte una informazione, lo dico io che ho tanti anni che faccio il giornalista, estremamente politicizzata, per cui non vengono fuori i problemi della fede. In un discorso Svidakovsky è chiarissimo, io però la devo interrompere, voglio dedicare l'ultimo minuto, abbiamo proprio un minuto, alla nostra Katia Caramelli per dirci che cosa succederà oggi alla fine. Tra pochissimo, tra circa un'ora, c'è il congedo con i cardinali, gli occhi sono puntati un po' su questo appuntamento per una curiosità, si vedrà quanti sono presenti, cioè si vuol capire quanti dei cardinali elettori sono già arrivati a Roma un po' per ipotizzare quando potrebbe cominciare il conclave, perché certo che se tutti sono già a Roma questo facilita un anticipo del conclave. Poi nel pomeriggio intorno alle 17 in elicottero il Papa lascerà il Vaticano alla volta di Castel Gandolfo, dove avrà un breve saluto per i fedeli, dopodiché alle 20 finisce il pontificato e comincia la sede vacante e passeremo ad un'altra storia, cioè quella del prossimo conclave. Quello del prossimo conclave che tu ci racconterai. Io vi ricordo anche che dedicheremo Italia in controluce a questa giornata e a questa mattinata, soprattutto alle grandi attese che ci sono, e poi ci sarà uno speciale allora nella quale il Papa prenderà l'elicottero e partirà. Grazie Katia Caramelli, grazie Gianfranco Svidakovsky, Marco Tarquinio, grazie Franco Piantanide, Alessandro Marco Tulli in assistenza e in redazione, grazie Carmelo Lauricella in regia, le ragazze del centralino e naturalmente la nostra Katia Caramelli. Ci sentiamo domani. Radio 24, la passione si sente.